sorte, così prospero momento, voi chiamanti d'ardimento, mi consigli di fuggir. Vo parlarle un solo istante, crepesi di morire. Ah, signor, non è la morte, come prendere un sorbetto, è un boccone maledetto, che si stenta a mandar giù, che si stenta a mandar giù. Un milione darei davanti, un milione darei davanti, per poter mandar di più. Non temer, vivrai poltrone, saranno salvi i giorni tuoi. Se si scopre la finzione, io son fritto al par di voi. Qui non sono conosciuto, per tuo servo son tenuto. Siete troppo delicato per garzon di giardinier. Siete troppo delicato per garzon di giardinier. Sia di me che vuole il fatto, sia di me che vuole il far niente non c'è. Quel che intendo li sento morire, l'incostante manconi di me. Quanto parve ne muti più lento, tanto più giunge grato quest'alma, or che calma si lungo timore. Morite da far, non c'è niente, ira, toglie voi state all'onore. Ma morite da far, non c'è niente, ira, toglie voi state all'onore. Infelice sorriso alla mente, non dice da far, non c'è niente, ira, toglie voi state all'onore. Potente fato, altrimenti o mio fido avea prescritto. Ella disparve, e in vano tre lustri la cercai per la gentera. La misera fu spenta, prigioniera. Triste caso, Minarri! Or pensa qual restai, quando a Dina m'offristi. Il Lady Zora vidi le note forme, i noti vezzi, la stessa voce, il suo sorriso stesso. E il fuoco in mar represso, al dolce lume di quegli occhi sì belli, sorse più vivo, ed amai Zora e lei. Ma come i pianti suoi a tergere giungesti, e destra e core ad ottenerne? Tanto afflitta era, tanto il serraglio e s'abborria da prima. Nel suo bel sé nacque l'amor da stima, io di quell'alma liberai l'affanno, lasciai libero sfogo al suo dolore, e mai petali piacque, né mi più vide che in prigione la tiene, quindi felice io son. Ecco che viene. Thank you. Signora, ai piedi vostri eccovi del serraglio il giardiniere che vi prega umilmente d'udir benignamente i detti suoi. Qual mistero a costui? Parla che vuoi! Già che siete sì buona, fatemi grazia intera. Ascoltate senza testimoni, quella gente mi mette in soggezione. Che mai vorrà? Partite! Or va benone! E ben siamo soli, appressati, parla liberamente. Sì, signora, io parlerò, ma zitti, per pietà, politica ci vuole. Selimo, è qua. Selimo, o ciel che ascolto, e vive il ver mi dici. Sì, femmina, io vivo ancor donna incostante. Selino, e sei pur tu? Così da Dina vieni agli amplessi. Disperato io vengo a rifacciarti il tuo perpetuo scorno. Ah, tu non sai che far potea, crudele. Or vola, amico, e tu ti disponi quanto è dopo al mio disegno. Premio dell'opra degno ne avrai, se arride il cielo al nostro intento. Riesca la faccenda e son contento. Dove son io? Qual tumulto in seno di contrari pensieri? Eccolo, io tremo. Di te vengo in traccia, tutto è disposto, o cara. Il tempio, il fuoco e l'ara, e a far compito il sacro dolce rito, manchi tu sola. Ma che vedo mai? Favella! Oh, dona ancora questa notte, signora, al mio dolore. Dolor? Che dici? Mi trafiggi il cuore. Thank you. affollato ti attende al tempio, e la solenne pompa con mille voti impaziente affretta. Del popolo l'amor in man m'aspetta. Come? Ricusadina, oggi all'altare di giurarmi fede, e l'indugio d'un giorno a me richiede. Perdonate, signor, ma il mio sospetto svelarvi io voglio. Crederei tacendo di mancarvi di fe. Lumi, che intendo? Quale sospetto è il tuo? Segretamente con uno schiavo favellar fu vista oggi a Dina in giardino. E a quel che parve d'alto affar favellò. Con uno schiavo? Chi fu la pace? E chi guidò la lei? Intender non potei, ma ben più grave cagion m'induce a paventar che a vol qualche inganno si trami. Presso il serraglio ignoto pescator stava celato, siccome esplorator posto in agguato. Ali, le tue parole di mille punte m'han trafitto il core. Se qualche traditor ardisse insidie mai, se amor segreto lei mi celasse in petto, perché mai mi svelasti il tuo sospetto? Mi chiamo Martina, mi ha fede già. già copra i passi miei del bell'astro il favor compite o dei. Salva ed illesa, guidate a queste braccia l'adorato mio bene, la bella Dina per cui solo respirare desio. Datele voi coraggio, voi date a lei coraggio eguale al mio. Se al sen per un momento il mio ben mi stringerà. Per un momento il mio ben mi stringerà. Palpitar di bel contento questo cor all'erba tra. Palpitar si da contento questo cor all'erba tra. Palpitar di bel contento all'erba tra. All'otra palpitar di bel contento questo ancora non potrà palpitar di bel contento questo ancora non potrà questo cor allor potrà questo cor allor potrà allor potrà allor potrà. Così oscura che in una sepoltura mi par di passeggiare, e fredda è sì che parmi di gelare. Silenzio! A questa volta s'appressa un calpestio. Sarà la ronda, è meglio che io m'asconda. Via di becco, nulla temer tu. Signor, il palo non usa a chi che sia rispetto o cortesia. Va! Dove va? Vieni, sciocco! Pian! Pian, per carità! Amiga, adien, saliero. Solo di Stima di felice con condisca l'indegna, oltraggio tanto stanco la mia clemenza, a sé dinnante veggo l'audace amante, per cui mi disprezzo veder trafitto. Quei che condanni a morte fu dell'infanzia mia primo compagno, e destinato a me fin dalla culla, egli m'amò fanciulla, adulta m'adorò. Per me la vita espose i colpi dell'armata gente, che dal materno tetto a forza mi strappò. Se a lui deggio intero l'amor mio, signor, lo vedi? Grazia, grazia per lui! Perfida, el chiedi, ed a vantarmi in faccia venisti il mio rival, di tua costanza a far pompa venisti a me davanti. Trema, tra pochi istanti vendicato sarò, posto si affretti il suo supplizio estremo. Ah oh no, pietade, un'altra volta piedi tuoi ne imploro! Non è più tempo, ite, volate! Adina, il duello presse, soccorretela voi! Lumi, a tal vista, qual mai mi sento in petto risvegliar di pietà senso novello. Ma che morire quello, porgetelo! Che vedo, il dono è questo ch'io feci a Zora! Ecco il ritratto mio, ma qual note vezzio! Adina il padre... La è mia figlia! O dei! Zora è la madre! O cara figlia! Ma frattanto muore, muore l'amante suo! Corrasi tosto e si sospenda la fatal sentenza, seppur n'è tempo ancora! Su lei vegliate! O istante... O figlia, o Zora.